Mrs. Bronte era rimasta la persona serena e paziente che abbiamo conosciuto. Gravemente inferma com'era, tormentata da forti dolori, si lamentava raramente. Nei momenti migliori chiedeva alla donna che si prendeva cura di lei di aiutarla a tirarsi a sedere nel letto per vederla mentre puliva il caminetto e vi preparava la legna, perché lo faceva proprio come in Cornovaglia. Era devotamente affezionata al marito, che caldamente la ricambiava e non permetteva che nessuno all'infuori di lui l'assistesse di notte. Sempre secondo le notizie date dalla mia informatrice, la madre non chiedeva frequentemente di vedere i bambini, probabilmente perché, sapendo di doverli lasciare orfani da lì a poco tempo, la loro vista la turbava profondamente. Così le piccine se ne stavano quiete, strette insieme, mentre il padre era occupato nello studio o usciva per svolgere le incombenze parrocchiali, quando non sedeva accanto al letto della madre. Prendevano i pasti da sole, poi se ne andavano nello studio dei bambini, dove sedevano a leggere, a sussurrare fra loro, a meno che non uscissero nella brughiera, tenendosi per mano. Le idee pedagogiche di Rousseau e quelle di Mr. Day erano filtrate attraverso molti strati culturali e si erano vastamente diffuse. Immagino che Mr. Bronte abbia ricavato dagli scritti di questi due teorici molte delle proprie idee sul miglior modo di trattare i bambini. In ogni caso, il metodo da lui adottato non fu certamente così inconsulto e stravagante come quello a cui fu sottoposta circa 25 anni prima del periodo di cui sto trattando una mia zia affidata a un discepolo di Mr. Day. Andò a vivere in casa di questo signore e di sua moglie come una figlia adottiva. Erano persone ricche e di buon cuore, ma il vitto che le davano e gli abiti di cui la vestivano erano i più semplici e rozzi possibile per adeguarli alle norme spartane. Bimba sana e allegra non dava molta importanza al cibo e al vestiario, ma risentiva come una vera e propria crudeltà la pratica che mi appresto a riferire. La coppia possedeva una carrozza sulla quale lei e il cane di casa erano fatti uscire alternativamente a prendere aria. Quello dei due lasciato a casa era fatto rimbalzare più volte in una coperta. Mia zia temeva assai questa pratica e lo spavento che provava fu probabilmente il motivo per cui l'esercizio venne ostinatamente continuato. Bisognava darle nervi saldi e il supplizio della coperta era stato escogitato per sostituire i fantocci ammantati da fantasma, divenutile tanto familiari che non vi prestava più attenzione. È ben risaputo che Mr. Day, da parte sua, rinunciò all'intenzione di sposare una certa Sabrina, da lui specialmente educata, perché a poche settimane dalla data fissata per il matrimonio, mentre era in visita lontana da casa, si era comportata frivolamente indossando un vestito dalle maniche trasparenti. Eppure Mr. Day e quei parenti di mia zia erano persone benevole. Ma erano profondamente imbevuti della convinzione maniacale che con uno speciale allenamento si potessero instillare nel bambino, nella bambina, l'abitudine alla vita dura e alla semplicità del buon selvaggio ideale, condannandoli a un modo di sentire e a delle consuetudini in pieno contrasto con l'ambiente corrotto e raffinato della civiltà nella quale erano inseriti. Mister Bronte desiderava fare dei suoi figli altrettanti piccoli spartani, indifferenti ai piaceri del cibo e all'apparenza del vestiario, e in quanto a quest'ultimo ebbe pieno successo con le figliole. Perseguì con spietato ardore il raggiungimento dello scopo che si era proposto. L'infermiera di Mrs. Bronte mi ha raccontato che un giorno in cui le bambine uscite in brughiera erano state sorprese dalla pioggia, pensando che sarebbero tornate coi piedini bagnati, aveva tirato fuori degli stivaletti colorati regalati da una persona amica, a quanto pensava lei da quel Mr. Morgan che aveva sposato la cugina Jane. E aveva posto le 6 paia in fila accanto al fuoco per scaldarle, ma quando i bimbi rientrarono, gli stivali erano scomparsi e si respirava un fortissimo odore di cuoio bruciato. Mr. Bronte li aveva visti e, giudicandoli troppo frivoli e lussuosi per i suoi figli, li aveva gettati tra le fiamme. Non risparmiava nulla di quanto offendeva la sua arcaica semplicità. Molto tempo prima dei fatti che ho riferito, era stato regalato a Mrs. Bronte un vestito di seta, ma al marito qualcosa del tessuto, fattura, colore, non era sembrato consono a quanto giudicava conveniente e naturalmente Mrs. Bronte non lo aveva mai indossato, ma nonostante tutto lo conservava come un tesoro in uno dei suoi cassetti che solitamente chiudeva a chiave. Un giorno, mentre era in cucina, udì Mr. Bronte che si muoveva al piano di sopra. Temendo qualche guaio per il suo vestito, salì le scale di corsa e lo trovò tagliuzzato in striscioline. Egli abitualmente controllava con risoluto stoicismo la sua forte e passionale indole irlandese, ma non poteva sopprimerla nonostante la calma filosofica e il comportamento dignitoso che generalmente imponeva a se stesso. Quando era infastidito o contrariato non parlava, ma sfogava la sua ira vulcanica sparando fuori dalla porta sul retro colpi di pistola in rapida successione. Mrs. Bronte, costretta a letto al primo piano, udiva le incalzanti esplosioni e sapeva che qualcosa era andata male, ma non discostandosi dalla sua mite indole, che vedeva tutto dal lato migliore, diceva: «Come potrei non provar gratitudine per uno che non mi ha mai rivolto una parola irosa?» Ogni tanto la collera del reverendo si sfogava in modo diverso, ma sempre senza proferir verbo. Una volta, per esempio, afferrato il tappeto posto davanti al caminetto, lo ficcò fra gli alari, poi su per la cappa e gli appiccò fuoco, trattenendosi nella stanza a dispetto del cattivo odore, finché quello, ormai del tutto inservibile, non si fu accartocciato e sbriciolato. Un'altra volta mise le mani su alcune seggiole e, segandone via lo schienale, le ridusse a sgabelli. Era un gran camminatore e percorreva la brughiera per miglia e miglia registrando nella memoria i segni impressi dal vento o dalle intemperie su quanto lo circondava. Osservava acutamente il comportamento delle creature selvatiche che andavano e venivano per la landa fra le pieghe montuose della collina. Vide scendere e planare a bassa quota a caccia del cibo per i piccoli le aquile che oggi da quelle parti non si vedono più. Parteggiò impavidamente per tutti i movimenti politici locali o nazionali che gli sembravano giusti. Nel 1811-12, quando era ancora investito del beneficio di Hartshead, gli operai delle manifatture insorsero scatenando i disordini che vanno sotto il nome di movimenti ludditi. Andavano in giro per le manifatture, sabotando le macchine di cui temevano la concorrenza. Egli era stato apertamente per l'intervento della legge, benché non si trovasse un solo magistrato che avesse il coraggio di agire, mentre le fabbriche del West Riding e i loro proprietari correvano un terribile pericolo. Naturalmente diventò impopolare fra gli operai e, ritenendo che la sua vita sarebbe stata in pericolo se avesse continuato a fare lunghe passeggiate disarmato, prese l'abitudine, conservata fino a oggi, di portare con sé una pistola carica. Durante la notte la posa sulla sua tavola da toeletta accanto all'orologio. Di mattina la riprende prima di mettersi l'orologio nel taschino. Molti anni dopo, quando da lungo tempo risiedeva a Haworth, gli operai delle manifatture entrarono in sciopero, dichiarandosi lesi dai padroni e protestarono rifiutando di lavorare. Mr. Bronte, convinto della legittimità della loro protesta, li sostenne con ogni mezzo in suo potere, aiutandoli a tenere il lupo lontano dalla porta delle loro case e a evitare l'incubo dei debiti. Parecchi degli abitanti di Haworth e dei dintorni, che erano proprietari di manifatture, gli fecero le loro aspre rimostranze, ma lui, convinto di agire secondo giustizia, perseverò. Le sue opinioni possono essere state spesso inconsulte, strane, i principi che lo spingevano all'azione eccentrici, addirittura stravaganti, il suo punto di vista parziale, appesantito com'era dalla misantropia, ma non fu mai influenzato da alcun motivo di personale interesse. Agiva secondo i suoi principi e non permise mai che il generico pessimismo che nutriva verso l'umanità interferisse nei contatti personali. Ebbe dei forti, veementi pregiudizi ai quali aderì ostinatamente e gli mancava la capacità di percepire quanto drammatiche fossero certe situazioni che desolavano la vita altrui. Non ho certamente la pretesa di ritrarre nel suo complesso una psiche che presenta caratteristiche talmente opposte, né di giustificarne i contrasti. Se ho insistito nel citare tanti esempi di eccentricità è perché mi preparo a trattare di una famiglia che affonda in quel substrato le proprie radici più profondamente di quanto mi sia dato di penetrare. Non pretendo in alcun modo di giudicarla, ma ritengo che tutto quello che si riesce a intuire osservando il padre sia atto a far luce sulla vita di sua figlia. Mrs. Bronte morì nel settembre del 1821 E la vita di quelle silenziose bambine deve essersi fatta ancora più quieta e solitaria. Negli anni successivi, Charlotte si applicò intensamente a richiamare alla mente l'immagine della madre e riuscì a fissare due o tre istantanee di lei. Per esempio, di una volta che giocava col figlioletto Patrick Brownell nel soggiorno della canonica di Haworth, già invaso dalla luce incerta del crepuscolo. Ma i ricordi di una testolina di 3 o 4 anni sono forzatamente sfocati. A motivo di un male cronico dell'apparato digerente, Mr. Bronte era costretto a una dieta rigorosa, così per evitare tentazioni o forse per garantirsi la quiete necessaria a una buona digestione, già prima della morte della moglie aveva deciso di consumare i pasti da solo, conservando poi questa abitudine fino alla più tarda età. Non provando il piacere nella compagnia altrui, non la ricercava né nelle passeggiate né fra le pareti domestiche. Il ritmo regolare della sua giornata era interrotto solamente dalle apparizioni dei fabbricieri o dalle visite eventuali di ecclesiastici che scendevano dalle vicine colline e attraversavano la brughiera per trascorrere il pomeriggio alla canonica di Haworth. Ma in conseguenza della morte di Mrs. Bronte, avvenuta dopo soli pochi mesi dall'insediamento della famiglia nel distretto e anche per via delle lunghe distanze da percorrere attraverso la squallida contrada, le mogli di quei reverendi non accompagnavano i mariti. E così le ragazze crebbero, passando dall'infanzia alla giovinezza, prive nella vita domestica di ogni compagnia naturale alla loro età, al loro sesso e alla loro condizione sociale. A vero dire, vi era una famiglia nelle immediate vicinanze di Haworth che era stata particolarmente gentile con Mrs. Bronte durante la sua malattia e che aveva invitato occasionalmente le bambine a prendere il tè. E siccome penso che la storia di questa famiglia, che a un certo punto interruppe qualsiasi relazione con i vicini, abbia fatto una profonda impressione sulla mente di Charlotte adolescente, è bene che io ne riferisca qui. Servirà anche a campione delle storie registrate nella memoria degli abitanti di quei villaggi isolati. Non ne garantisco i particolari di minore importanza, né lo vuole fare la mia informatrice, che al momento in cui avvenne i fatti era troppo giovane per valutare appieno la portata di quanto, con l'aggiunta delle inevitabili esagerazioni, udiva sussurrare da persone prive di cultura. La famiglia apparteneva alla setta dei dissenzienti e professava la religione con grande rigore. Il padre possedeva un lanificio e godeva di una discreta ricchezza. Il loro stile di vita appariva grandioso ai piccoli Bronte, abituati alla spoglia semplicità della canonica. Avevano perfino una serra, l'unica nelle vicinanze. Edificio cupo, con più muri e pareti rivestiti di legno che non finestre vetrate, circondato da un giardino tagliato a metà dalla strada maestra che porta a Haworth. C'erano molti figli e una delle figliole maggiori era andata a sposa a un ricco manifatturiero che viveva al di là di Keighley. Aspettava un bambino e all'avvicinarsi della data prevista per il parto aveva chiesto che una sorella minore, che le era molto cara, andasse a tenerle compagnia e rimanesse presso di lei fin dopo l'evento. Fu accontentata. La giovinetta, che poteva avere dai 15 ai 16 anni, andò a raggiungerla. Tornò dai suoi dopo alcune settimane trascorse in casa del cognato, triste e depressa. Interrogandola, i genitori scoprirono che era stata sedotta dal marito della sorella e che le conseguenze dell'incesto non tarderebbero a manifestarsi. Il padre, furente e indignato, la rinchiuse in camera in attesa di decidere sul da farsi. Le sorelle maggiori, svergognandola, presero a trattarla con disprezzo. Solamente la madre, che pure era infama di inflessibile, ne ebbe pietà. La gente raccontava che a volte chi passava di notte lungo la strada vedeva la madre e la figlia che piangendo passeggiavano in giardino, dopo che tutti gli altri erano andati a letto. Quando Miss Bronte mi narrò la storia, anni e anni dopo, ambedue riposavano nella tomba. Le voci dicevano che il padre crudele era impazzito dalla vergogna per quanto era accaduto in una famiglia religiosa come la sua. Aveva offerto denaro a chiunque si fosse fatto avanti, disposto a sposare la sua povera figlia peccatrice. Si era presentato un tizio che l'aveva impalmata e portata via da Haworth, trattandola poi in modo tale da spezzarle il cuore, tanto che la poverina era morta quando era ancora quasi una bambina. Un così appassionato risentimento sarebbe potuto sembrare naturale in un uomo che poneva al di sopra di ogni altra cosa l'intransigente moralità religiosa. Se gli altri membri della famiglia, ivi comprese le sorelle, non avessero continuato ad accettare senza batter ciglio l'ospitalità del ricco cognato, mentre il peccato di questi era 100 volte peggiore di quello della povera giovinetta, la cui colpa aveva suscitato tanto implacabile risentimento ed era stata così brutalmente nascosta. Con severo giudizio implicito, il contado considera i discendenti di questa famiglia, che accumulano insuccessi nel campo degli affari quando non cadono vittime della cattiva salute, colpiti da maledizione. Fu in questa casa che i piccoli Bronte fecero le loro uniche visite che cessarono dopo breve tempo. Ma quei bambini non desideravano compagni estranei, non erano abituati alle gioie infantili, erano tutto le une per l'altro. Non credo vi siano mai stati in una famiglia membri più teneramente legati reciprocamente. Maria leggeva i giornali e riferiva le notizie alle sorelle minori, che sorprendentemente vi prendevano interesse. Non avevano libri per bambini, tra virgolette, e le loro menti acute brucavano indisturbate nel sano pascolo della letteratura inglese, come scrive Charles Lamb. Le domestiche erano impressionate dalla straordinaria intelligenza delle piccole Bronte. In una sua lettera, il padre mi scrive a proposito di Charlotte. Le serve spesso hanno detto di non avere mai visto né prima né dopo di lei una bimbetta così intelligente, e che dovevano stare in guardia su quanto facevano e dicevano in sua presenza. Tuttavia, sempre visse in perfetto accordo con loro. Queste domestiche, che vivono ancora ormai anziane, abitano a Bradford, conservano il ricordo fedele e affettuoso di Charlotte e parlano della sua invariabile e comprensiva gentilezza, come quando una bimba così piccina non ebbe pace finché la vecchia culla, ormai inutilizzata, non fu inviata alla casa dove vivevano i genitori di una di loro, dove era nata una sorellina. Ed elencano una lunga serie di gesti che, ispirati da gentile considerazione, vanno da quei primi anni fino alle ultime settimane della vita di Charlotte Bronte. Una di queste donne, pur avendo lasciato l'impiego molti anni prima, si recò da Bradford a Haworth per porgere le sue sentite condoglianze a Mr. Bronte quando l'ultima delle sue figliole morì. Può darsi che non molte persone nutrano affetto per la famiglia Bronte, ma coloro che vollero loro bene le amarono con sentimento duraturo. Mi rifaccio alla lettera del padre che dice: «Fin da piccoli, appena seppero leggere e scrivere, Charlotte, le sue sorelle e suo fratello presero l'abitudine di rappresentare piccoli drammi composti da loro, e il duca di Wellington, eroe di Charlotte, sempre riusciva vincente quando tra di loro si accendeva una delle solite discussioni sui meriti comparati suoi e quelli di Bonaparte, di Annibale e di Cesare». Quando si scaldavano troppo e la disputa raggiungeva il parossismo dopo la morte della loro madre, dovevo intervenire io come arbitro per sentenziare quanto meglio potevo. Generalmente, mentre trattavo questi problemi, ero indotto a pensare che in loro si manifestava il segno di un nascente talento, raramente o forse mai riscontrato da me prima di allora in bambine di quell'età. Mi torna a mente un fatto che mi sembra opportuno riferirle. Quando le mie figlie erano ancora molto piccole, a quanto posso ricordare tra i 10 e i 4 anni, mi convinsi che sapevano più di quanto avessi scoperto, e per metterle in condizione di parlare con minore timidezza, pensai che se fossero state in un certo qual modo protette, avrei raggiunto lo scopo che mi proponevo. Per combinazione avevo in casa una maschera, le misi in fila e dissi loro di esprimersi arditamente a turno dopo essersi nascoste il viso. Incominciai con l'ultima nata, Anne, quella che poi cresciuta firmò i suoi romanzi con lo pseudonimo di Acton Bell, e le chiesi che cosa mancasse principalmente in una bambina della sua età. Rispose: gli anni e l'esperienza. Chiesi alla successiva, Emily, che più tardi firmò col nome di Ellis Bell, cosa mai convenisse fare con suo fratello Bronwell, che a volte si comportava male. Rispose: farlo ragionare e se non vuol dar retta, frustarlo. A Bronwell chiesi quale fosse il mezzo migliore per conoscere la differenza che corre tra l'intelletto maschile e quello femminile. La risposta fu: considerarne la differenza fisica. A Charlotte chiesi quale fosse il miglior libro al mondo, rispose la Bibbia, insistei, e subito dopo il libro della natura. Alla seguente, Elizabeth, chiesi quale fosse il miglior metodo di educazione per una donna, rispose quello che la metterà in grado di dirigere bene la sua casa. E finalmente chiesi alla maggiore, Maria, quale fosse il modo migliore di spendere il proprio tempo. E lei disse, dedicarlo alla preparazione di una felice eternità. Può darsi che io non abbia riferito le risposte parola per parola, ma ci sono andato vicino, visto che produssero in me un'impressione profonda e duratura. Il senso, senza dubbio possibile, è esattamente quello che ho espresso. La strana, bizzarra semplicità del mezzo escogitato dal padre per scoprire il segreto del carattere dei figli e il contenuto delle sue domande, il tono delle loro risposte, ci mostra quale peculiare sistema di educazione derivò dallo speciale ambiente in cui crebbero i Bronte. Non frequentarono altri bimbi, non conobbero altro modo di pensare se non quello che veniva loro suggerito dai frammenti delle conversazioni fra ecclesiastici ascoltati indugiando nel soggiorno, oppure dalle discussioni su quanto avveniva nel villaggio udite in cucina. Le une e le altre lasciarono in loro una forte impronta. Si interessavano molto ai personaggi di pubblica importanza e ai problemi di politica interna ed estera dibattuti nei giornali. Di Maria Bronte, che morì all'età di 12 anni, suo padre affermava di aver potuto discutere con lei di qualsiasi importante avvenimento con la libertà e il piacere che avrebbe provato nel farlo conversando con una persona adulta. Capitolo 4. Circa un anno dopo la morte di Mrs. Bronte, una delle sue sorelle maggiori venne a Penzance per dirigere la casa del cognato e prendersi cura dei bambini. A quanto credo, Miss Bronwell era una donna coscienziosa, dall'indole gentile e dal forte carattere, ma dalle idee alquanto ristrette, come era naturale in chi aveva trascorso quasi tutta la vita in uno stesso luogo. Aveva ben radicate idee preconcette e ben presto prese le distanze dallo Yorkshire. Venirvi a vivere da Penzance, dove i fiori che noi al nord consideriamo piante da serra sbocciano in abbondanza senza riparo anche in inverno, e dove il clima mite permette agli abitanti, se così lo desiderano, di trascorrere la giornata all'aria aperta, costituiva un grande cambiamento per una signora ben oltre i 40. Lì, nello Yorkshire, né fiori sbocciavano né piante verdi crescevano, e per trovare un albero anche di modeste proporzioni bisognava cercarlo in lungo e in largo nella brughiera che, per molti mesi interamente sepolta nella neve, si estendeva triste e spoglia dalla casa, che ormai era la sua dimora, su, lontano a perdita di vista. Dove spesso, nelle notti d'autunno e d'inverno, sembrava che i venti giungessero insieme dai quattro punti dell'orizzonte, infuriando intorno alla casa quasi fossero fiere che tentavano di aprirsi un varco in cui fare irruzione. Sentiva la mancanza del continuo giro di cordiali, gaie visite in uso nei piccoli centri di campagna del sud. E ancor più le mancavano gli amici, frequentati fin dall'infanzia, alcuni dei quali erano stati legati ai suoi genitori prima di esserlo a lei. Molte delle abitudini locali le dispiacevano e temeva in modo particolare il freddo umido che saliva dal pavimento lastricato dei corridoi e del soggiorno della canonica di Haworth. Anche le scale avevano i gradini di pietra, come naturale, in un luogo dove le cave sono vicine e gli alberi devono essere cercati lontano. Mi hanno detto che Miss Bronwell andava sempre in giro calzata di rumorosi zoccoli per tema di prender freddo. Per lo stesso motivo, nei suoi ultimi anni passava quasi tutto il suo tempo in camera, consumandovi i pasti. Le bambine la rispettavano e nutrivano per lei quella specie di affetto che nasce dalla stima, ma non sembra che le abbiano mai voluto bene con slancio. Certo, fu una dura prova per una persona della sua età il cambiare totalmente ambiente e abitudini come ella fece, e tanto maggiore ne fu il merito. Non so se Miss Bronwell insegnò alle nipoti alcunché all'infuori dei lavori d'ago e delle arti della buona massaia, in cui più tardi Charlotte si distinse con tanto onore. Le lezioni che dovevano studiare sui libri erano regolarmente sentite dal padre. Inoltre, ebbero sempre l'abitudine di raggranellare per conto proprio una abbondante messe di informazioni. Un anno o due prima dei fatti che narro, nell'Inghilterra del Nord era stata aperta una scuola per le figlie degli ecclesiastici a Cowan's Bridge, il piccolo borgo che sorge lungo la strada maestra tra Leeds e Kendal, di facile accesso per gli abitanti di Haworth, visto che la diligenza vi passa ogni giorno e fa tappa a Keighley. La retta annua per ogni educanda, secondo quanto leggo nel prospetto, per il 1842, credo che non sia stata aumentata dal 1823, anno dell'apertura della scuola, si ricava dall'elenco seguente. Regola seconda. La retta per la manutenzione del vestiario, il letto, la tavola e l'insegnamento è di 14 sterline all'anno. Metà della somma deve essere versata in anticipo all'arrivo dell'educanda, oltre a una sterlina per l'apertura di un conto destinato all'uso dei libri, eccetera. Il programma di insegnamento include la storia, la geografia, la consultazione del mappamondo, la grammatica, la scrittura e l'aritmetica, ogni genere di lavoro d'ago e la parte più piacevole dei lavori domestici, quali la manutenzione della biancheria fina, stirare, eccetera. Per l'insegnamento, a richiesta della musica o del disegno, si dovranno pagare a parte 31 sterline all'anno per ciascuna materia. Il terzo comma richiede che i responsabili indichino le direttrici di studio desiderate per l'educanda, tenendo conto dell'avvenire che le si prospetta. Il quarto comma dà l'elenco dei capi di vestiario che ogni fanciulla deve portare con sé e conclude: tutte le educande devono essere vestite allo stesso modo. Semplici cuffie campagnole, in estate un vestito bianco di domenica, di tela grezza nei giorni feriali. In inverno il vestito sarà color viola e per uscire indosseranno cappe del medesimo colore. Per garantire l'uniformità del vestiario, invece di portare con sé vestiti, mantelline, cappellini a cuffia, sciarpe e ornamenti vari, consegneranno all'istituto 3 sterline, cifra totale dunque all'iscrizione. 7 sterline pari a metà retta anticipata, una sterlina per l'uso dei libri, una sterlina per il corredo di uniforme. L'ottavo comma dice: tutta la corrispondenza e i pacchi in arrivo saranno esaminati dalla sovrintendente. Ma questa è una regola vigente in tutti gli educandati femminili, nei quali è dato per scontato che un membro del corpo insegnante sia investito di tale facoltà, anche se è poco saggio da parte sua farne uso con troppa insistenza. In tutte le altre regole, minuziosamente elencate, non si trova nulla che sia degno di speciale interesse in questo prospetto che certamente Mr. Bronte ebbe sotto gli occhi quando decise di iscrivere le figlie all'educandato di Cowan's Bridge, dove accompagnò Maria ed Elizabeth nel luglio del 1824. Giungo ora ad un punto della mia narrazione che affronto con grande perplessità, perché la duplice versione che me ne danno è così contraddittoria da rendere impossibile l'accertamento della verità. Miss Bronte affermò ripetutamente che non avrebbe descritto il Lowood di Jane Eyre nei termini in cui lo fece se avesse immaginato che sarebbe stato identificato con Cowan's Bridge, come invece avvenne. Tuttavia, mantenne che in quel quadro non vi è una sola circostanza diversa da quanto vi avvenisse al tempo in cui vi si era ritrovata. Ammise però che non aveva ritenuto, dato che era inserito in un racconto romanzesco, attenersi alla rigida esattezza giustamente richiesta a una testimonianza presentata in tribunale. Non aveva indagato sui motivi e sui sentimenti di chi sovrintendeva all'istituto, come avrebbe forse fatto se li avesse analizzati spassionatamente. Credo che se le fosse stato proposto, avrebbe colto volentieri il destro di smorzare l'indignazione suscitata nella pubblica opinione da quella sua risentita descrizione, anche se lei stessa, che soffrì poi per tutta la vita, sia nel fisico che nel carattere, delle conseguenze di quanto vi è narrato, sia stata propensa fino all'ultimo a ritenere equa la sua interpretazione dei fatti, sostituendo, in buona fede, una verità sua alla verità oggettiva.